con Irene Genovese di Quest Livorno per presentare il progetto Quartieri Uniti Ecosolidali. Irene, ben trovata. Salve, ciao, grazie dell'invito. Ci presenti questa iniziativa? È stato un progetto, un processo. Noi abbiamo creduto che ricreare comunità di quartiere, sia solidale che ecosostenibile, fosse una via per ridare qualità al vivere quotidiano. E quindi ci siamo impegnati, partendo inizialmente dal quartiere dove io abito con un'amica, abbiamo iniziato a dire: ma noi conosciamo le persone che abitano qua? Ecco, alla luce della triste realtà che non ci conosciamo più, abbiamo deciso di attivarci e di promuovere un po' a tutto tondo iniziative che potessero facilitare la connessione tra le persone, la conoscenza, un clima conviviale ma anche culturale, ecco, cogliere le varie opportunità per far sì che la gente si incontrasse, si conoscesse e stabilisse legami piacevoli, anche affettivi, e poi anche uno sviluppo di quella che è una consapevolezza di cittadinanza attiva. Siamo partiti nel 2013, dicevo, nel nostro quartiere. Poi fine 2016, inizio 2017 abbiamo deciso di estendere questo attivismo, di tentare di estendere anche agli altri quartieri. Quindi abbiamo partecipato a un progetto della Regione Toscana di cittadinanza attiva che abbiamo vinto, quindi abbiamo creato altri nuclei di cittadini attivi in una ventina di quartieri. Questo in un anno e mezzo circa. Poi ci siamo messi in rete tra noi. Il nostro strumento è il WhatsApp, per iniziare, no? Mettiamo le persone che vogliono entrare dentro WhatsApp, dove inizialmente diciamo conosciamoci, vediamoci, vediamo che proposte ognuno fa, vediamo che voglia di fare c'è, che idee, e da lì quindi, oltre a questa rete di gruppi di quartieri, piano piano sono emerse anche delle chat tematiche su temi ben specifici, sia di quartiere o interquartieri. Insomma, ora abbiamo una rete molto semplice, però veloce e efficace nel comunicare, nel creare nuovi gruppi, gruppi che possono evolvere. Però il nostro obiettivo, perché lo dice anche la scienza, a dire la verità, che il fattore di maggior beneficio a vivere bene e lungamente è vivere in comunità solidali. Già i nostri nonni ce lo dicono, i genitori, ai nostri tempi ci conoscevamo tutti, era un bellissimo stare insieme dove la gente si aiutava. E quindi dovrebbe essere il programma di ogni amministrazione, ricreare comunità rionali. E quindi avere il decentramento dei servizi, in parole semplici, avere il giardiniere di quartiere, l'operatore ecologico di quartiere, ecco, recuperare quel lato umano, relazionale, che si è perso nel tempo, e anche dare sviluppo a quella economia solidale che vuoi rappresentata dalla Banca del Tempo. Abbiamo tirato una certa Banca del Tempo, siamo oltre 200, e da quest'anno cerchiamo solidarietà reciproca offrendo servizi gratuitamente, oppure abbiamo la chat Dono e Baratto, abbiamo 5 chat di Mercatino, abbiamo attivato la chat Compostaggio Domestico e ora partiremo sperimentalmente con il compostaggio condominiale, questo grazie anche alla collaborazione con l'AMPS locale. Quindi agiamo su più fronti che sono anche esplicitati nel nostro manifesto che abbiamo creato con tavoli partecipativi, che è quello di ricreare un polo della salute e del benessere, sempre rionale, un polo della cultura, un polo sportivo. Ecco, vorremmo veramente, come era un tempo, ma come anche la sindaca di Parigi mi sembra abbia compreso, lei dopo il lockdown, noi con orgoglio anche prima, lo diciamo da tempo e speriamo che qualcuno ci ascolti anche nelle altre sfere, che secondo noi il modello di vita rionale che il lockdown ha permesso di valorizzare, perché se le persone finalmente hanno scoperto che è bello avere il verde sotto casa curato, avere i negozi di quartiere dove c'è un po' di tutto, avere le relazioni con i negozi di quartiere, no? Che ti permettono quel contatto umano che sicuramente l'online non ti dà e sicuramente non ti dà nemmeno il grande magazzino. Sembrano piccole cose, in realtà è probabilmente parte di una rivoluzione di come vogliamo vivere, e noi stiamo vedendo che funziona perché le persone ora sono molto più attive, più propositive, hanno capito che ognuno di noi ha talenti, professioni, reti, che se noi ci interconnettiamo non siamo poveri e stiamo avanzando sempre di più con questo processo, tanto da essere stati anche riconosciuti dall'Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche e quindi Sociologia, perché hanno detto che un movimento così dal basso, che cerca senza essere strutturato e che quindi dà la possibilità a chiunque di poter dire la sua, di poter dare il proprio contributo, ecco, non ce ne sono secondo loro a livello nazionale, forse anche oltre. Infatti ora siamo osservati in speciale, dobbiamo fare un questionario e poi ci saranno i risultati. Però loro, ecco, rinforzano questa unicità. Noi non ci fa piacere essere unici, lo vorremmo forse esportato ovunque. E quindi magari ci abbiamo messo determinazione, no? Nel riuscire a attuare questa idea di il vivere bene e in collaborazione e in ecosostenibilità. Una curiosità, quali sono i vostri meccanismi di discussione e decisionali? Come funziona? Sì. Noi, avendo creato questo manifesto, dove c'è lo scivolo umano esplicitato, nel senso che abbiamo messo lì, creiamo appunto questi poli culturali, che vuol dire cosa c'è in un quartiere di culturale, c'è un museo, c'è una biblioteca, c'è un cineforum, c'è un teatro, ecco, già quello che c'è di solito ognuno viaggia per conto proprio. Vediamo innanzitutto di fare rete con quello che c'è e vedere cosa manca, iniziare a lavorare su quello che manca, e così per ogni settore. Quindi nel manifesto è esplicitato, come anche gli stili di vita sani, ci sono gli ambulatori dei medici, ci sono gli ambulatori specialistici, privati anche, ci sono centri olistici, palestre, farmacie, però ognuno viaggia per conto proprio e questi famosi stili di vita non cambiano mai, cioè noi non sappiamo, per esempio anche nel nostro quartiere, quindi quanti sono gli obesi, quanti sono i cardiopatici, quali sono le pratiche quotidiane che noi possiamo attivare come collettività per affrontare e anche migliorare, no, questi indici. Probabilmente ogni agenzia per conto suo non ce la fa e noi vorremmo recuperare quella consapevolezza personale, individuale, per fare il cambiamento dello stile di vita che porta poi al vero benessere, no? Quindi meccanismi di prevenzione, il decentramento dei servizi territoriali. Ecco, quindi noi a livello assembleare abbiamo compreso che forse non c'è bisogno delle assemblee per il lavoro che facciamo noi, perché c'è bisogno, semmai, dalla nostra ottica, di sostenere le azioni e i progetti di chi ha voglia di fare qualcosa nel quartiere, perché già tutto ciò che è bello, buono, le buone pratiche sono conosciute, sono note, a noi vanno bene tutte, se c'è bisogno di aiuto noi cerchiamo di sostenerle, quindi non ci esponiamo al no. Non facendo assemblea, evitiamo il grosso scoglio, dice no, siamo di parte, no, voglio dire, ma una cosa buona e giusta, vogliamo che i giardini siano belli, che diano salute, perché il verde è bello e salute, va bene, quindi tutto ciò che ci porta lì, va bene, non è che lo dobbiamo contrastare, quindi per ora, in questa fase nostra, poi capiremo se dobbiamo operare in un altro senso, ma supponiamo che in questa fase qui, che è già tanto per noi, cioè arrivare allo scongelamento dell'individuo che inizia a vibrare e a dire ok, faccio la mia parte, propongo qualcosa per la comunità, e piano piano emerge anche il soggetto comunità come soggetto propositivo che inizia a dire cosa voglio io nel mio quartiere, perché chiudono le palestre, noi diciamo ma noi una palestra ci serve, un centro olistico, lo vogliamo al nostro quartiere. E magari l'idea non l'abbiamo ancora realizzata, però l'idea può essere, ok, diventiamo noi soggetto propositivo e diciamo noi nel nostro quartiere vogliamo un centro olistico che non sia più magari di un'unica persona che a volte non ce la fa, ma se siamo noi tutti a dire vogliamo questo, come vorremmo una mensa di quartiere per la salute, perché tante persone sole nelle case, magari non hanno voglia di cucinare o alla fine non cucinano, quindi c'è anche una povertà nutrizionale che poi porta a malattia. Ecco, mentre sappiamo che in una mensa magari di quartiere il nutrimento viene sia dal cibo, che vorremmo sano, chilometro zero, dando vita e sostegno anche alle realtà locali, ma anche sicuramente la salute relazionale, perché gli incontri, non si senti solo, sappiamo tanto che la paura, la solitudine, no? È uno dei fattori che fa abbassare la difesa immunitaria. Per saperne di più, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web? Ho il numero di telefono, perché noi con WhatsApp siamo maestri, ma il nostro strumento 3298 6970, che poi diffondiamo agli altri, oppure l'email irenegen@gmail.com. Ora siamo diverse centinaia e abbiamo tante anche chat interessanti che in tempi brevissimi si formano, come per esempio Quartieri Alberati, siamo 130 entrati in meno di una settimana, la Banca del Tempo siamo 200 entrati in pochissimo tempo, quindi abbiamo una capacità ormai del singolo di inventare gruppi che non sono burocratici, però danno la possibilità dell'incontro, dello scambio, dell'azione e quindi di passare dal virtuale al reale, perché il nostro fine è assolutamente quello di essere nella realtà. Il virtuale può essere uno strumento che ci facilita a trovare accordi, ecco. Quartieri Uniti Eco Solidali, un saluto e un ringraziamento a Irene Genovese di Quest Livorno. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie molte dell'invito, grazie a tutti, ciao.